already know the answer. You are a disgrace. 也门的野中友好协会主席加迈尔。 Now to have psychologists and psychiatrists. 据说加迈尔先生在中国留学多年。 Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini. As the number of sick babies and children increases almost tenfold in recent days, China's most senior leaders are trying to show. E le cronache di tutto il mondo ormai hanno messo sotto osservazione la crisi del latte contaminato alla melamina, che prima era una questione interna cinese talmente grave da aver sicuramente coinvolto la salute di, si dice, 53.000, ma c'è chi dice che potrebbero essere molti di più, bambini cinesi, bambini perché sono i più esposti al pericolo comportato dal ingerire questo latte contaminato. Ci sono stati alcuni, per fortuna pochi, morti, 4 per ora. Ci sono oltre 13.000 ricoveri ospedalieri, ma tutte le cifre sono passibili di revisione. Nelle ultime ore si è capito che in realtà la questione sta adesso cominciando ad assumere una qualche chiarezza, forse non ha per nulla raggiunto l'apice in Cina, forse si potrebbe assistere alla scoperta di nuovi casi, ora che i genitori, ad esempio nelle zone rurali della Cina, hanno capito di che si tratta, per esempio di che si tratta quel motivo alla base dello star male di bambini di casa, e quindi porteranno i loro figli negli ospedali per i controlli. Questo lo ha affermato a Ginevra la portavoce dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che si chiama Fadela Chaib. Nel frattempo anche il nostro paese, come avrete probabilmente ascoltato dai vari notiziari, comincia ad adeguarsi, a reagire alla situazione, per quanto ci possiamo ritenere ai margini estremi, forse oltre i confini di sicurezza di questo pericolo, ma di fatto sono scattati ad esempio dei sequestri preventivi. I NAS hanno proceduto a un sequestro di confezioni latte e yogurt a Milano. A Firenze sono stati portati via quintali di biscotti. Si comincia a capire che naturalmente il pericolo non è tanto nel latte in quanto alimento primario, ma in tutti quegli alimenti infiniti, no? Pensate per esempio alle barrette per fare uno snack, pensate appunto ai biscotti, pensate alle pastigliette di cioccolato, pensate a tutto quello che il mondo dei consumi oggi propone, che alla fine contiene una componente di latte. Pensate anche ormai come questo genere di prodotti viaggino, si spostino, vengano prodotti o prodotti su licenza in tutto il mondo. Insomma, la situazione diventa piuttosto complicata. E prima di dire che siamo completamente al di fuori, no, dall'ombrello che ci può far piovere in testa del latte alla melamina, insomma, conviene fare tutti gli accertamenti necessari. Ma ne parliamo ora con maggiore cognizione di causa con un amico del nostro programma che si chiama Daniele Barbone, fa il direttore alla BPSEC, che è un'azienda che si occupa del controllo qualità dei prodotti dalla Cina all'Europa, quindi niente di meglio che fare due chiacchiere con lui. Ma se volete partecipare attivamente a questa conversazione, potete usare come di consueto il 349-238-6666, sia per porre domande specifiche che per naturalmente assumere una posizione in relazione a quanto diremo adesso con Daniele, che saluto. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, ci aiuti, Daniele, tanto per cominciare a inquadrare la questione anche proprio da un punto di vista delle sostanze, ovvero ci puoi rapidamente spiegare, per chi ancora non l'abbia capito, che cosa sia questa melamina, e se puoi fare anche un'ipotesi su quali potrebbero essere le più probabili vie, al di là proprio della volontà di avvelenare il latte, attraverso cui questa sostanza potrebbe essere entrata a far parte poi del latte commercializzato in Cina e chissà dov'altro. Beh, la melamina è una materia prima che viene utilizzata normalmente nelle vie che non riguardano la frode per produrre alcuni tipi di plastiche che sono note come resine melaminiche, quindi il destino di questo tipo di prodotto in origine non era di certo legato a un additivo o a un prodotto necessario per la produzione di alimenti. Il fatto che ci sia finito nella catena alimentare dipende da un uso fraudolento, e come uso fraudolento è un uso che, per le informazioni di cui disponiamo, è recente, perché si hanno evidenze a partire dal 2006 sostanzialmente di utilizzi non consentiti della melamina. Viene utilizzata in particolare per cercare di simulare una specie di aumento del contenuto di proteine, quindi questo è il motivo per cui si è tentato di utilizzarla come adulterante. Ecco, scusa se ti interrompo, Daniele, ma come peraltro diceva più autorevolmente di me Wen Jiabao, promettendo una persecuzione durissima dei responsabili, ma come si può essere così pazzi da intraprendere una strada di questo genere? Per quanto criminali si possa essere, poi voglio dire, ci si espone a evidenti rischi, no? Come possiamo immaginarla un'operazione di questo genere? Sulla tossicità della melamina sono veramente molto recenti, perché fino all'inizio del 2006 non si aveva evidenza di effetti tossici né sugli animali né sull'uomo, e quindi chi la utilizzava come adulterante lo faceva in ipotesi pensando che questa non desse degli effetti di tossicità né nei confronti degli animali né nei confronti dell'uomo. Poi nel 2006 ci sono stati i primi casi, in particolare nel Nord America, negli Stati Uniti e nel Canada, casi nei quali si è riscontrato dei contenuti di melamina che producevano delle forti insufficienze renali nel caso di alimenti per i cani e per i gatti. E quindi l'Ordine dei Veterinari del Nord America, degli Stati Uniti, riscontrò che la causa per la quale c'era stata tutta una serie di decessi e di malattie di queste tipologie di animali d'affezione era dovuta al fatto che c'erano alti contenuti di melamina. Questa melamina in particolare poi non è che veniva aggiunta evidentemente al prodotto finito per il consumo dei cani e dei gatti, ma stava ancora più a monte, cioè stava nei mangimi in particolare coi quali venivano alimentati ad esempio le mucche. Questo è anche un altro dei motivi per i quali poi ce la troviamo nel latte, no? E quindi alcune farine animali, alcune tipologie di prodotti che indirettamente erano stati nella loro catena a contatto con questa melamina come adulterante finalizzato a simulare la presenza di proteine, alla fine della catena finivano nell'alimentazione degli animali d'affezione, e quindi gli animali d'affezione si è riscontrato nel 2006 prima in Nord America, Stati Uniti e Canada e poi in Sudafrica, che avevano un numero di decessi molto alti, e da lì si è iniziato a capire che effettivamente la melamina poteva dare degli effetti nocivi prima sugli animali, e adesso per la prima volta si riscontra che questa melamina in determinate concentrazioni è pericolosa anche per l'uomo. In sostanza mi stai dicendo che è probabile che un utilizzo di questa sostanza furbescamente, strategicamente utilizzata senza consapevolezza di danni reali, può darsi che in un certo senso faccia parte del mercato, diciamo così, da una certa quantità di tempo, senza che se ne fosse ancora accertata la tossicità, o perlomeno, perché probabilmente poi avrebbe fatto male 5 anni fa come oggi, no? Senza essere stata individuata come causa di determinati problemi. Esattamente questa è la situazione. Non ultimo, siccome poi per utilizzare questo tipo di simulanti che venivano in modo fraudolento in tutto il mondo, è frode questa, quantomeno una frode in commercio, questa scelta di utilizzare la melamina poi è stata per così dire soppiantata dal mercato, perché ce n'erano altri che erano molto meglio con riferimento ad esempio al costo, e quindi la melamina in sé non ha mai avuto una situazione di grande evidenza pubblica, perché avevano trovato degli altri simulanti che andavano molto meglio della melamina, e quindi anche chi adulterava utilizzando altre sostanze. Soltanto nel 2006 i casi sugli animali, soltanto nel 2008 i casi sull'uomo. Senti, prima di interromperci un attimo per uno stacco musicale, ti chiamerei in causa su una serie di messaggi che ci stanno arrivando, che più o meno suonano tutti nello stesso modo, anche per quelle che poi sono le notizie in circolo tra agenzie e notiziari nelle ultime prossime ore. Ne prendo un paio, per esempio quello di Simo che dice Daniele, è possibile che colossi come Nestlé stiano ritirando precauzionalmente i loro prodotti per paura di contaminazioni secondarie? Ad esempio qualche licenziatario potrebbe produrre uno yogurt nel medesimo stabilimento dove viene prodotto lo yogurt cinese? Oppure Gianni ci scrive, tutti chiamano in causa il gruppo Nestlé, le risulta qualche presa di posizione ufficiale da parte dell'azienda? Sai qualcosa di tutto ciò? Le informazioni che circolano fanno riferimento soltanto alla Cina, perché Nestlé produce yogurt per il mercato cinese direttamente in Cina, così come latte per il mercato cinese direttamente in Cina, e di certo non produce latte o derivati in Cina per esportarli poi verso i paesi occidentali. Le prese di posizione quindi di Nestlé fanno riferimento a quel mercato e al momento non si ha evidenza che questi prodotti abbiano avuto contaminazioni dirette. È una precauzione che stanno prendendo, ma riguarda esclusivamente il mercato locale della Repubblica Popolare Cinese. Perché tutti quei prodotti, poi aiutami, tutti quei prodotti diciamo globali, come le famose barrette al cioccolato e caramello e le pastigliette di cioccolato, hanno comunque poi dei termini di realizzazione localizzati, non hanno una circolazione. L'idea che ci siamo fatti è che sicuramente sui prodotti freschi, anche per gli accordi bilaterali che vigono tra l'Italia e la Repubblica Popolare Cinese, in particolare nel comparto dei latticini e del latte, noi non corriamo sostanziali rischi. Se vi sono stati dei sequestri, è molto più probabile che siano avvenuti non tanto perché fosse contaminato, ma perché non poteva essere sul nostro mercato quel tipo di prodotto. Quindi questo è il motivo per cui anche in questi giorni le autorità italiane stanno effettuando dei sequestri di prodotti latticini che vengono dal mercato cinese. L'altro settore, quello dei derivati, è un settore un po' più delicato che forse è bene che venga tenuto sotto controllo. Torniamo a parlare tra qualche istante, è una giornata calda, in questo momento George W. Bush, ascoltiamo un attimo, sta parlando alle Nazioni Unite e c'è un signore che si chiama Ahmadinejad che lo sta ascoltando dalla cuffia, una situazione che porterà anche al consueto imbarazzo all'interno del Palazzo di Vetro. Tra l'altro sono arrivati anche personaggi dell'ultima ora della scena politica internazionale, ad esempio Sarah Palin ha fatto ingresso alle Nazioni Unite, ne parleremo più tardi. Torniamo a parlare invece con Daniele Barbone subito dopo la musica, ma prima vi ricordo il 349-238-6666 se volete porre domande o fare osservazioni. Di nuovo con Daniele Barbone in diretta, stiamo discutendo, commentando, provando anche un po' a districare questa notizia degli ultimi giorni che naturalmente ha sparso agitazione e nervosismo nel pubblico di tutto il mondo, lo vediamo anche dai nostri messaggi che riceviamo al 349-238-6666 via SMS. Daniele, è inutile negare che notizie di questo questo genere, non vorrei dire che cancellano un'Olimpiade, ma insomma, se c'era stato un effetto positivo, l'effetto di una notizia di questo genere, poi potrei dirlo meglio tu di me, insomma, è esplosivo sul pubblico, sul desiderio di consumare, di capire, di conoscere, di avvicinarsi magari a determinate proposte commerciali. Cosa dici? Io ricordo ad esempio il caso della Mattel, che fu un evento sul quale abbiamo concentrato molto l'attenzione non più tardi di un anno fa. Certo. Da questo punto di vista poi le autorità cinesi, quando succedono eventi del genere, dopo un atteggiamento iniziale che può essere quello di non essere così trasparenti, poi dopo non solo diventano trasparenti ma adottano anche iniziative molto dure, no? Ricorderete senza dubbio il fatto che un anno fa, in coincidenza con gli eventi della Mattel, ma per fatti che riferivano al mondo dei farmaci, il responsabile, il predecessore dell'attuale responsabile del settore controlli alimenti e farmaci, fu condannato a morte e giustiziato, no? E quindi sappiamo che da questo punto di vista poi la reazione delle autorità cinesi è molto molto dura successivamente a eventi di questa natura, e quindi credo che Daniele, proprio quello ci chiede per esempio Marco da Modena, ci dice: ma è vero che i responsabili cinesi del latte avvelenato potrebbero essere anche condannati a morte, per l'appunto? Io ricordo che il responsabile che c'era fino all'inizio del 2007 di questo settore, per fatti connessi alla mancanza di attenzione nei confronti dei controlli dovuta a corruzione, e quindi ci fu anche questo aspetto in quella vicenda specifica, il responsabile fu condannato a morte e giustiziato, un altro dei dirigenti fu condannato a morte e graziato, e un altro prese 15 anni di carcere. Quindi la reazione in questi casi è, successivamente a questi eventi, è molto dura. Senti, con la figura professionale che hai, vorrei un tuo commento a questa dichiarazione rilasciata da Luciano Caprino, che è un farmacologo dell'Università La Sapienza di Roma, che ha detto: ora che è venuto allo scoperto questo problema in Cina, le ditte produttrici europee dovrebbero attuare un controllo chimico sui loro prodotti per verificare l'eventuale presenza di melamina e dovrebbero dichiarare pubblicamente i risultati dei controlli. Ha ragione, esagera, soprattutto è mai possibile che una procedura di questo genere vada in scena, e come si configurerebbe? Io dicevo che è un caso veramente recente quello di utilizzo di questo tipo di sostanza come adulterante, no? E quindi conseguentemente la chimica è una scienza che permette di cercare e trovare delle sostanze nel momento in cui tu hai percezione che vanno cercate, no? Non è che cerchi qualsiasi cosa nei prodotti alimentari, così come nei mangimi, così come nelle farine animali o nei prodotti destinati agli animali. In questo momento si è riscontrato questa pericolosità e sicuramente le aziende dovranno mettere a punto dei protocolli di controllo, soprattutto quelle che hanno a che fare con fornitori che vengono da questo tipo di paesi, che riguardano anche la melamina, quindi laboratori chimici, strutture come la nostra, quella delle università pubbliche o dei centri di ricerca possono essere un interlocutore che può aiutare a mettere a punto questi protocolli di controllo, che a questo punto per queste sostanze o per altre per le quali si ha percezione che possono essere utilizzate deve essere un'azione da mettere in piedi. Peraltro c'è la proposta di un altro ascoltatore che scrive: far pagare alle ditte estere importatrici i costi dei controlli sui prodotti importati, che ne dici? Le autorità pubbliche italiane effettuano molti controlli sui prodotti alimentari che vengono inseriti nel nostro circuito. Abbiamo anche dei dati ufficiali da questo punto di vista. Il Ministero della Salute annualmente fa una relazione annuale che dà evidenza di questi controlli. Anche per dire che su tutti i controlli effettuati, ad esempio sui prodotti di origine vegetale, l'ultimo dato è la relazione 2007 riferita all'anno 2006, si riscontrò un 6% di prodotti che non erano conformi alle normative che vigono in Italia tra i prodotti alimentari del settore vegetale che erano entrati nelle nostre dogane. Quindi un'azione di controllo viene fatta, e in questo senso i costi poi sono chiaramente a carico dei soggetti che sono stati oggetto del controllo. Quindi su questo possiamo stare ragionevolmente tranquilli. Va bene, grazie Daniele Barbone, direttore di BPSEC, un'azienda che si occupa di controllo qualità dei prodotti. Continueremo insieme a monitorare, soprattutto ascolteremo quello che avrà da dirci anche nei prossimi giorni. Questa sembra una crisi in atto, una diversa crisi rispetto ad altre magari più popolari e più visibili e più esplosive, ma altrettanto interessanti, anche perché poi è all'origine, alla base proprio della comprensione, quel fenomeno di possibile integrazione di mercati come quello che tra la Cina e il resto del mondo, noi proviamo a descrivere in questi giorni. We admire your courage. We honor your sacrifices. We thank you for your inspiring example. George W. Bush sta prendendo severamente posizione in questo momento nel suo discorso alle Nazioni Unite, dal vivo, in diretta in questo momento, in supporto della Georgia, nell'ambito della crisi con la Russia. Sono inquadrati in questo momento Condoleezza Rice nello stand degli Stati Uniti d'America e naturalmente ripetute le immagini che vanno a cercare Mahmoud Ahmadinejad, che è appena arrivato a New York per i lavori di questa Assemblea Generale dell'ONU. Ha pensato prima, pensato bene sganciare subito la sua prima bomba, ha dichiarato che la crisi di Wall Street va attribuita in gran parte alle guerre di Bush, ha rilasciato un'intervista al Los Angeles Times e ha anche affermato che Israele ha il destino segnato come un aereo che ha perso il motore. Insomma, non sono esattamente auspici pacifici quelli sotto il quale sta andando in scena, è appena cominciata questa Assemblea Generale dell'ONU. Non si è dilungato George W. Bush, del resto come suo costume. Il discorso non è stato lungo, ma è stato seguito con molta attenzione dalle agenzie di tutto il mondo. Ne sono già uscite tante, ve ne riporto qualcuna riguardante le sue parole. Ad esempio, a un certo punto George W. Bush ha detto: ogni paese in questa sala ha la responsabilità di schierarsi contro i fondamentalisti che minacciano la libertà nel mondo. Tutti abbiamo l'obbligo di prevenire che i nostri territori diventino santuari per il crimine organizzato. Questa era la premessa della dichiarazione, poi naturalmente ben più dura che ha fatto poco dopo, quando ha detto che paesi come la Siria e l'Iran continuano a sostenere i terroristi, o come quando ha chiamato in causa anche la Corea del Nord, chiedendo che le Nazioni Unite attuino le sanzioni verso Corea del Nord e Iran riguardanti la proliferazione nucleare. Ci sono manifestazioni in atto a New York, ce n'era una, come ricorderete, annunciata da molto tempo dagli ebrei democratici, a cui dovevano partecipare prima Hillary Clinton, poi Sarah Palin, poi nessuno perché hanno litigato e hanno deciso i politici, le donne politiche in questo caso, di non andare per non trasformare una protesta contro Ahmadinejad espressa dagli ebrei americani democratici in una questione elettorale. Però tutta la zona attorno alle Nazioni Unite, a Manhattan, è bloccata, sono state chiuse al traffico le strade adiacenti al Palazzo di Vetro, ci sono manifestanti di ogni ordine e grado, anche quelli naturalmente che ne vogliono fare una questione elettorale, ad esempio sono una cinquantina di persone con cartelli contro la guerra. Una manifestazione pacifista che protesta anche contro il candidato repubblicano John McCain, innalzano cartelli con scritto McCain uguale Bush e Bush uguale guerra. E ancora Bush ha detto: la Carta delle Nazioni Unite tutela l'identità di tutti i paesi piccoli e grandi. L'invasione della Russia in Georgia ha violato questi principi. Gli Stati Uniti continueranno a sostenere la democrazia in Georgia. La presa di posizione di Ahmadinejad sarà il prossimo momento caldo di questa Assemblea Generale delle Nazioni Unite, uno degli ultimi grandi palcoscenici sui quali George W. Bush ha modo di affacciarsi per dire la sua, per storicizzare la sua posizione. Continuano a piovere immagini delle manifestazioni al di fuori del Palazzo di Vetro, ma noi passiamo a questo punto invece a parlare del prossimo grande evento americano, l'inizio dei dibattiti. Le elezioni presidenziali americane 2008. Obiettivo 4 novembre. I know Senator Obama and I've worked with him many times and I respect him. Senator Obama does not have the national security experience and background to lead this nation. I think that when we're having a debate with John McCain, it is going to be much easier for the candidate who was opposed to the concept of invading Iraq in the first place. Insomma, già a sentirli così si capisce che sono il diavolo e l'acqua santa, me la passate, ma forse è troppo, è sbagliata, ma insomma che non si somigliano proprio per niente John McCain e Barack Obama. Il fatto è che adesso cominceranno il loro vero e proprio match, avranno 3 round per disputare questo match più un quarto che verrà disputato però per conto loro dai loro 2 vice, Sarah Palin e quel Joe Biden che già viene criticatissimo da tutto il mondo mediatico e etichettato come il candidato dimenticato, quello di cui non si parla, che non riesce a fare notizia, insomma quello che si sottende alla fine questo, che Barack Obama ha sbagliato a scegliere, ci ha messo in qualche modo del pepe sulla questione anche Bill Clinton nei giorni scorsi in un talk show, quando ha detto: ma guardate che non avete capito niente, Hillary non avrebbe mai accettato una proposta di ticket di vicepresidenza con Barack Obama. E poi da lì in poi si è messo a parlare bene di Sarah Palin, intanto per chiarire che lui comunque di sostenere Barack Obama al di là insomma delle prese di posizione d'occasione, ma diciamocelo chiaro e tondo, non ci pensa proprio. E invece, come ascoltavamo in questo servizio presentato sul sito del New York Times, molto interessante, cominciano gli analisti a studiare i 2 candidati da un punto di vista stilistico, per capire se poi in questi dibattiti c'è veramente un favorito, ma al di là del programma, al di là delle cose da dire, ma soprattutto per come le potrà dire, per la sua capacità di comunicare, per la sua capacità di trasformare trasformare in un certo senso le sue parole in dei colpi, no? Quasi pugilistici, messo a segno un formidabile uppercut da John McCain, oppure magnifica serie di jab di Barack Obama. I dibattiti vanno così, hanno tra l'altro, a parte il fatto che hanno strutture differenziate, ce ne sarà uno completamente, il secondo completamente affidato alle domande del pubblico e addirittura della gente che si collegherà via internet, mentre il primo, quello dedicato alla politica estera, il terzo poi sarà dedicato alla politica interna, sarà di tipo un po' più tradizionale, ma tenete presente che alla fine sarà organizzato con 9-10 blocchi tematici, dove ciascuno dei due dirà il proprio punto di vista su quella questione, ad esempio che cosa fare per il ritiro dall'Iraq, ma poi ci sarà un tempo piuttosto ampio, qualcosa tipo 5 minuti, quindi mettete 2 minuti per uno per dire che cosa pensano sulla questione, poi per 5 minuti i due potranno duellare veramente, che è una roba che naturalmente dal punto di vista mediatico italiano è improponibile, perché a un certo punto si alzerebbero dalle sedie e comincerebbero a darsi gli sganassoni. Loro riescono magicamente a farlo, riescono magicamente a entrare nel discorso dell'altro senza però coprirlo, facendolo parte dei prepotenti e dei maleducati, riuscendo a ricamare la battuta, no? La stoccata tra una parola e l'altra con uno stile completamente diverso tra loro, e questo è molto interessante, perché Obama ormai è stato individuato come un grande oratore, con il suo passato di studi legali che gli permettono di, in un certo senso, di fare delle vere e proprie conferenze, no? Ma questo può essere anche un problema, perché naturalmente tende ad andare lungo, tende a intellettualizzare un po' troppo i suoi discorsi, questa può essere una forma di vulnerabilità, no? Poi tende un po' troppo al pastorale, a un certo punto potrebbe predicare un po' troppo e questo potrebbe mostrare il fianco magari a qualche fulminante battuta del suo avversario. Dicono gli analisti americani che, insomma, Obama si spera che in questi giorni in cui sta studiando in Florida tecnica di dibattito, perché fanno dei veri e propri approfondimenti con tante simulazioni, c'è uno che fa finta di essere John McCain e Barack Obama che gliele suona come faceva Cassius Clay una volta, ebbene, che deve imparare a pungere, mentre per quello che riguarda John McCain si nota che prima di tutto di solito va meglio in politica estera che in politica interna, e quindi è avvantaggiato dal fatto che il primo dibattito, quello che darà un po' il tono, no, dei duelli, riguarderà appunto la politica estera, e che poi deve misurare, no, il suo desiderio di indulgere in un certo memorialismo, e poi alla fine lo invecchia un po', no, perché si mette a parlare dei suoi trascorsi, che sono trascorsi da eroi, che sono trascorsi in Vietnam, sono trascorsi da prigioniero, sono trascorsi però molto lontani, che affondano in quegli anni 70 di cui gli americani hanno sicuramente memoria, ma di cui forse all'altezza del 2008 possono non aver voglia di sentir parlare troppo, quando i problemi sono dietro la porta e quello che serve prima di tutto sono soluzioni. Prima pagina. Dunque, cominciamo aggiornando più che prima pagina, proprio ultimissimissimissima ora. George W. Bush ha finito a 5 minuti di parlare alle Nazioni Unite, ha parlato anche naturalmente di questioni economiche che sono il vero problema sulla sua scrivania in queste ore. Si è impegnato a prendere provvedimenti coraggiosi per prevenire il crollo dell'economia che minaccia i mercati di tutto il mondo. Ha detto anche: il mio governo ha già agito per stabilizzare i mercati, ma ha anche dato indicazioni di cercare le cause di fondo che hanno causato il problema. Adesso bisogna vedere che cosa ne penserà il Congresso, perché come sapete sta crescendo anche una opposizione piuttosto robusta e piuttosto ruvida ai provvedimenti proposti da Paulson. E invece, per quello che riguarda le elezioni, vi risparmio per oggi una passata di sondaggi, anche perché sarà ora ormai che cominciamo ad analizzare la questione Stato per Stato, perché è così che poi si vota e si vincono le elezioni in America. Da domani, in avvicinamento al primo debate, al primo dibattito di venerdì, naturalmente cominceremo a farlo. Resto anch'io sulla scia delle ultimissime, torno a parlare di latte, insomma, dopo Daniele Barbone, direttore di BPSEC, come ci ha chiesto anche qualche ascoltatore, certo. Così ridiamo il nome della sua azienda, Laura, l'ascoltatrice. Dunque, c'è un'ultima dichiarazione di Rosario Trefiletti, presidente della Federconsumatori, che dice che, nonostante sia a conoscenza anche lui perfettamente che in Italia al momento non ci sono rischi perché non può essere importato latte, come neanche i prodotti derivati dalla Cina, però dice: è impellente la necessità di introdurre all'interno dell'etichettatura dei prodotti alimentari l'indicazione del paese di origine, in modo tale che quindi ognuno possa sapere da dove arriva realmente il prodotto che si vuole comprare e si possa fare liberamente le proprie scelte. Andiamo invece alla politica cinese, perché c'è un visitatore importante, significativo, che in questi giorni è di scena a Pechino, in Cina. Si tratta di Hugo Chavez, presidente venezuelano, che in Cina naturalmente non è un viaggio di piacere quello di Chavez, ma c'è un intreccio significativo che lega la Cina e il Sud America, nel caso specifico il Venezuela, perché di fatto il Venezuela è in grado di offrire petrolio alla Cina. Credo che il Venezuela sia il principale produttore di petrolio al mondo, esclusi gli stati arabi, e d'altra parte la Cina può dare in cambio soprattutto materiale militare e addirittura armi. Infatti c'è uno scambio quasi alla pari. Praticamente Chavez resterà 3 giorni in Cina e tra i vari accordi verrà siglato anche un acquisto di 24 aerei da addestramento K8 in cambio appunto di petrolio. Ricordiamo che Chavez ha definito, appena atterrato a Pechino, la Cina un alleato strategico, e tanto per proseguire sulla scia dei paesi comunisti o ex comunisti, andrà poi in Russia, quindi tutti comunque nell'ottica, credo, di Chavez, nemici degli Stati Uniti. Ci sono un paio di malinconici, direi già nostalgici, addio che si stanno consumando nella, quando vuole, romantica, diciamo così, città di New York in questi giorni. Uno è certo, accertato, ormai una scadenza senza più possibilità di rinvio. L'altro invece è molto annunciato e dolente solo per alcuni, per pochi, per una esigua minoranza, ma vogliamo parlare di entrambe le notizie. La prima è una notizia di colore sportivo, riguarda lo Yankee Stadium, ovvero lo stadio situato nel Bronx, vicino alla metropolitana, dove si scende tradizionalmente, l'avrete visto in migliaia di film, padre e figlio scendono la metropolitana, fanno un brevissimo tratto di strada. Metropolitana in quella zona poi crea anche una specie di come si dice, di K, non so, no, è sopraelevata, ecco, è sopraelevata. E vanno dentro lo Yankee Stadium, un stadio che appartiene a un'altra tradizione, a un altro approccio allo sport, insomma, del tutto incongruo con lo sport di oggi, no? Con lo stadio degli Emirates a Londra, ecco, è più vicino sicuramente agli stadi del vecchio calcio inglese, e lo stesso valeva per il baseball: tanto legno, quel colore verde marcio, quel prato, quella in fondo dimensione umana. Io l'ultima volta che ho messo piede allo Yankee Stadium, tra l'altro, fu in una occasione straordinaria, la celebrazione di Mickey Mantle, uno dei più grandi giocatori di baseball degli Yankees, la squadra più amata di New York, poi c'era un'altra che si chiama i Mets, e l'atmosfera era straordinaria. Si stanno consumando le ultime partite del campionato di baseball, che finisce quando finisce anche l'estate e comincia l'autunno, e grande è la celebrazione in America. Per 85 anni è stato il tempio dell'American pastime, no? Come si chiama, il passatempo americano, ovvero del baseball. Verrà sostituito da qualcosa di certamente più funzionale, ma certamente altrettanto meno romantico. E invece se ne sta andando anche un quotidiano, e ci dispiace molto perché ci piaceva un sacco. Si chiama New York Sun ed è un quotidiano assolutamente di opinione, assolutamente secondo giornale per i lettori newyorkesi. Vendeva poco, vende tuttora qualche dozzina, 12, 13, 14 mila copie, vende soltanto a New York, deve tirare molto di più per riuscire a garantire agli inserzionisti una certa visibilità, ma aveva due caratteristiche. Al di là di un approccio conservatore illuminato, diciamo così, che tra l'altro nella stampa americana mancava a livello di quotidiani, quindi occupava quello spot in modo interessante, ma aveva poi una straordinaria perché esce tuttora, anche se sembra condannato a sospendere le pubblicazioni, ha una sezione arte e spettacolo e cultura assolutamente straordinaria, con collaboratori di primissima qualità che surclassa addirittura il New York Times e certamente il Post, e dava un po' alla middle class newyorkese metropolitana, o magari non newyorkese, ma che voleva abbeverarsi del messaggio newyorkese, delle letture straordinarie. Naturalmente vendeva poco, i giornali si leggono sempre più su internet, se sentite i saloni di settore sono apocalittici al riguardo. Il New York Sun, a meno che non ci sia un miracolo, sospenderà presto le pubblicazioni, e ce ne dispiace molto. Ancora due brevi notizie dalla Cina. Intanto vi riaggiorniamo su un appuntamento di cui abbiamo anche parlato la settimana scorsa, perché siamo davvero alla vigilia, o quasi. Giovedì salperà per il cielo, per lo spazio, lo Shenzhou 7, la missione spaziale che prevede la prima passeggiata di un astronauta cinese, è un pilota militare di 42 anni. L'appuntamento è tra venerdì e sabato, forse quindi ne parleremo lunedì con Jefferson Ming, e questi 40 minuti nello spazio per Zhai Zigang. E poi un elemento invece che riguarda, se vogliamo, anche l'economia cinese. Anche i cinesi, non solo gli americani e non solo noi europei, cominciano ad avere un po' paura dell'economia. C'è un sondaggio, un'inchiesta fatta dalla Banca Centrale Cinese a molti migliaia di imprenditori cinesi, insomma c'è il rischio, la paura dell'aumento dei prezzi, dell'inflazione e un timore complessivo sul caro vita, quindi anche la galoppante economia cinese, insomma, crea dei piccoli problemi e dei piccoli inconvenienti. Questo era Jefferson Ming di oggi, io sono Stefano Bistolini, qui al mio fianco Emiliano Enrico, in regia a Roma Alessandro Chiappini, a Milano Giacomo Spunta. Jefferson Ming è tra radio24.it per contattarci, replica stasera alle 9, appuntamento domani alle 4 qui su Radio 24.